Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ci è mancato forse il tempo per argomentare sul vivente come fotomontaggio, lo faremo se varrà ancora la pena settimana prossima. Nel caso, intanto, qui vi ringraziamo per la cortese attenzione, grazie anche a Cristiano Valli per la regia e vi confermiamo l'appuntamento. Domenica prossima alla medesima ora. Buona settimana.